AVS Media Demo. AVS Media Demo. Passano i tempi e passano le giornate. Qualcuno è di tempi che ho passato con lei. Ricordi sono passati e i tempi sono venuti. E penso che qualcosa è avvenuto perché con te non mi annoio mai. Con te non mi sento bene perché sono fatto di te. AVS Media Demo. Quando sono con te tutto vale intorno a me. E da ogni istante sai è più bello che mai. Niente lacrime più passe, sono i passi mai più. Ho trovato quella giusta che non lascerò più. AVS Media Demo.